il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La scorsa settimana alla Corte Benedettina di Legnaro si è tenuto il 7° simposio internazionale sui pesticidi, evento che ha visto la partecipazione di ricercatori da tutto il mondo. Quello dei pesticidi è un argomento importante che incontra sempre più la sensibilità dei consumatori, ma che è fondamentale in realtà, forse ancora di più, per gli effetti che essi hanno sull'ambiente. Un esempio è quello dei neonicotinoidi, dei fitofarmaci, che sono particolarmente interessanti in questo periodo per la ricaduta che hanno sulle api. Ma di tutto questo vorremmo approfondire con Lorenzo Furlan, dirigente del settore ricerca agraria di Veneto Agricoltura, per capire di cosa si è parlato durante questo simposio e per capire anche quali possono essere le prospettive future nel settore, quali ricadute possono avere per la salute dei consumatori e per l'ambiente. Intanto allora benvenuto, dottor Furlan. Grazie. Grazie a lei. Saluti a voi. E di cosa avete parlato la scorsa settimana? Abbiamo parlato della problematica in generale dei fitofarmaci sistemici. Questo gruppo di lavoro si interessa soprattutto di questa categoria di fitofarmaci perché ha un elevato potenziale di influenza sull'ambiente. Ecco, sistemici significa cosa esattamente? Che possono essere assorbiti dalle piante, entrare in circolo nelle piante e quindi pur applicandoli su una parte della pianta essere distribuiti in tutta la pianta e quindi avere un elevato potenziale di contatto con diverse forme che attaccano la pianta. O faccio un esempio: se sono sistemici, è stato dimostrato che le goccioline d'acqua, si chiamano guttazioni, che si formano sulla pianta in certe condizioni, contengono concentrazioni apprezzabili di fitofarmaco, e se qualche insetto va a bere può morire. Ecco, noi conosciamo da consumatori i pesticidi pensando anche a un effetto negativo che possono avere sulla salute ingerendo i cibi, le mele, non so, la frutta, la verdura. Ecco, però immagino che in questo periodo, in questi ultimi anni, sia molto cambiato anche l'utilizzo e la tipologia di questo genere di prodotti. Come sta evolvendo il settore? Ecco, allora in realtà la categoria più a rischio nell'utilizzo dei prodotti è sicuramente quella degli agricoltori, degli operatori agricoli, perché vengono a contatto con le sostanze alla più alta concentrazione. Noi consumatori, diciamo, siamo a valle di una catena e veniamo a contatto con i prodotti a una concentrazione molto più bassa. Quindi il fatto di utilizzare dei fitofarmaci a bassa tossicità con gli effetti collaterali più contenuti possibile è innanzitutto l'interesse dell'operatore agricolo, dell'agricoltore. Allo stesso tempo però l'agricoltore ha anche la necessità di portare a casa il suo reddito. Certo. E quindi deve contemperare entrambe le esigenze. Come fare questo? Innanzitutto avendo maggiore quantità di informazioni affidabili per fare le scelte su quale fitofarmaco utilizzare, e uno degli scopi del convegno è stato proprio dare queste informazioni, e in secondo luogo utilizzarli solo se, dove e quando serve, e questo si può ottenere con l'applicazione della difesa integrata. Quindi durante i lavori del convegno si è cercato di capire quali possono essere gli effetti collaterali sull'ambiente e sugli operatori di questi fitofarmaci, che hanno questa caratteristica della sistemicità. Poi abbiamo visto quali possono essere gli strumenti per poter ridurre gli effetti collaterali negativi che dal loro uso derivano. E abbiamo individuato quale fattore fondamentale per ridurre questi effetti collaterali, l'applicazione della difesa integrata, cioè fare i trattamenti solo quando serve, dando dei criteri precisi su come decidere. Ecco, questo è stato uno dei risultati più importanti con delle proposte pratiche. Chi di fatto poi dà queste indicazioni? A chi si rivolgono questi agricoltori per sapere anche cosa usare, quando e come? Ecco, questo è proprio un punto chiave. Allora, Diciamo che oggi come oggi l'assistenza tecnica indipendente dalla vendita è piuttosto modesta nelle nostre campagne, dovremmo aumentarla. Noi per sopperire a questa mancanza abbiamo sviluppato uno strumento che si chiama Bollettino Colture Erbacee, che viene diffuso tramite mail e tramite SMS. Abbiamo al momento circa 3.000 iscritti a questo servizio e è in tempo reale durante tutti i 365 giorni dell'anno, e cerchiamo di fare formazione, preparazione a quello che si deve fare in campagna e soprattutto dare le informazioni in anticipo per poter far capire se un certo tipo di trattamento serve, se non serve o non serve, e dicendo chiaramente: guarda che questo non serve, in questo caso non serve, e chiaramente esponendoci anche a un rischio, perché che magari non è il momento per attuarlo. Non è il momento per attuarlo, oppure se lo attui in quel momento puoi ottenere un risultato su due obiettivi diversi, quindi con un trattamento aumenti l'efficacia e riduci anche l'impatto. Certo, ci fermiamo un momento, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. We won't let our worries. in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con il dottor Lorenzo Furlan, dirigente del settore ricerca agraria di Veneto Agricoltura, e stiamo parlando di pesticidi. Ecco, parlavamo prima di neonicotinoidi e parlavamo di api, perché le api sono un indicatore particolarmente sensibile del stato di salute, di salubrità di un ambiente, no? Sì, certamente le api sono un buon indicatore sulla presenza di eventuali problemi dell'ambiente. I neonicotinoidi sono stati accusati di causare una parte almeno della mortalità delle api e effettivamente dal punto di vista scientifico si è dimostrato che ci sono dei meccanismi legati alla distribuzione di questi prodotti, soprattutto con la concia della semente di mais, che possono causare la mortalità. Il principale forse è l'intercettazione da parte delle api delle polveri che le seminatrici durante la semina emettono in aria. Le api passano da un campo all'altro, intercettano queste polveri in queste nuvolette e si è dimostrato che possono morire a causa appunto delle polveri che si sono attaccate al loro corpo passivamente. Poi possono essere danneggiate dal fatto che queste polveri vanno sui fiori spontanei e se loro li visitano poi possono assumerle e quindi morire. Certo. Quindi questo meccanismo direi che è stato dimostrato con lavori fra l'altro proprio della nostra Università di Padova e si cerca di ridurre questi effetti proprio con la difesa integrata, anche se al momento c'è una soluzione più radicale perché questo tipo di impiego è stato sospeso per 2 anni. Mi pare che appunto in Italia in questo è un po' l'avanguardia, l'Unione Europea si sta un po' adattando, sta guardando ai vostri risultati prendere dei provvedimenti in questo senso di sospensione dell'uso di questi prodotti. Esattamente, diciamo che la prima sospensione a livello europeo è stata fatta in Italia. E sia le ricerche sui meccanismi di danno che possono appunto causare queste sostanze, sia le soluzioni per ridurre il loro impatto hanno trovato in Italia, diciamo, un terreno fertile. La maggior parte dei lavori su questo tema, cioè sia sullo studio di queste molecole e i loro effetti ambientali, sia sulle strategie di difesa integrata per ridurre gli effetti collaterali negativi, sono stati fatti per buona parte in Italia. Benissimo, la ringrazio di queste informazioni. Penso che ci risentiremo per altri argomenti perché questo ci apre una porta a cui i nostri ascoltatori sono certamente molto sensibili. Siamo a vostra disposizione. Grazie. Buona serata. Passiamo adesso ad alcune notizie. Si tiene il 23 e 24 novembre a Soave Durello & Friends, manifestazione che propone il sabato mattina visite alle cantine di produzione del Durello e a partire dalle 17 di sabato e domenica nel Borgo Rocca Sveva la degustazione di vini Durello e di altri spumanti da tutto il mondo. Informazioni sul sito www.montilessini.com. Passiamo invece a parlare di radicchio. Continua fino al 24 novembre a Borgo Rio San Martino presso Scorzè la 32esima festa del radicchio, una delle feste più belle e popolari dedicate al radicchio rosso tardivo di Treviso. Questa mostra inaugura un sodalizio per promuovere i prodotti tipici veneti, la casa degli IGP Veneti, lanciato dai consorzi del radicchio di Treviso, di Chioggia e Rosso Veronese. Le tre denominazioni, per la prima volta insieme, intendono poi proseguire in futuro la collaborazione, ampliandola ad altre ricchezze agroalimentari della regione. E già in questa festa è possibile degustare i radicchi IGP assieme all'olio del Garda DOP e al riso Vialone Nano Veronese IGP. Tra gli eventi, dal 22 al 24 novembre, si terrà la 7ª rassegna enogastronomica con mostra e vendita di produzioni tipiche regionali e degustazioni di piatti a base di radicchio IGP. Domenica 24 novembre si terrà infine il 6º concorso gastronomico tra istituti alberghieri del Veneto, premio San Martino Challenge. E passiamo adesso ad alcuni appuntamenti formativi. A Legnaro, in Corte Benedettina, si parla di sistemi agroforestali ieri e oggi e domani in Europa e in Italia, venerdì 15 novembre alle ore 9. Scopo del seminario è illustrare quanto è stato fatto e si sta facendo in termini di ricerca, applicazione e divulgazione per proporre sistemi agroforestali innovativi, produttivi e redditizi. il 18 e il 25 novembre alle ore 16 a Conegliano nell'Aula Magna dell'Università e il 25 novembre a Negrar nella sede della cantina Valpolicella Negrar si parla di politiche per la competitività nel settore vitivinicolo veneto. Sempre alla Corte Benedettina di Legnaro invece due corsi per addetti ai lavori, il 19, 26 e 28 novembre si tratta di gestione energetica delle serre, mentre il 29, il 4 e l'11 dicembre si parla di innovazione in agricoltura. Anche per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il Quadrifoglio, potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.